Thank you. strania, ecco fuggir dovrei, abbandonar la patria, l'ore dei vostri dei, il suolo mio raccolsi di gloria i primi allori, di decere i nostri sul nemico, via deserto fino a domani. le gole di Naplata, di Naplata le gole. Oh, piedi scolle me giudici, mai non udrà la gente dinanzi a nubbia di uomini, né vil, né reo mi sento, proferse il labbro incauto, fatal segreto avevo, ma svanita di speranza sol bramo di morir. fer di costoro, io stessa lo gettai. Una che in tre, quattro c'è gelosia, che la sua morte una vision no potrà male questa aia. Oh, 天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Thank you.